известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. The difference between Ahmadinejad and Mousavi in terms of their actual policies may not be as great as has been advertised. Either way, we were going to be dealing with an Iranian regime that. In questa frasetta appena pronunciata da Barack Obama può risiedere il cuore di un dibattito assai particolare, ma anche che potrebbe diventare anche assai duro, sicuramente spinoso anche per alcuni governi europei, anzi per l'Unione Europea nel suo insieme, dopo le sbrigative prese di posizione all'indomani della votazione per le presidenziali in Iran. In sostanza Barack Obama ha detto in una intervista di ieri che dal suo punto di vista tutto sommato le differenze tra Ahmadinejad e il suo concorrente Mousavi non sarebbero così importanti, così rilevanti. Per esempio non ci sono motivi per pensare che Hossein Mousavi avrebbe seguito un approccio differente sulla questione nucleare, e che poi comunque non importa, comunque che sia, le votazioni, finché non vengano dimostrate dei brogli, o forse perfino in presenza dei brogli, in modo equo o con dei brogli, ha detto Barack Obama, comunque è stato raggiunto un risultato, e in quanto tale l'atteggiamento predominante della Casa Bianca è quello di rispettarlo, perché un tempo c'era una cosa che si chiamava regime change, cambio di regime, una vera e propria dottrina attraverso la quale la Casa Bianca di George W. Bush ha impostato una strategia di comportamento, di condotta sul fronte internazionale, che ha prodotto operazioni e risultati, o ipotesi di risultati di cui sappiamo bene la portata. Una delle principali intenzioni di Barack Obama alla Casa Bianca è smontare mattone per mattone, pezzo per pezzo, questa strategia, questa dottrina del cambio di regime, ovvero dell'imposizione ad altri governi di un regime secondo le intenzioni e i desiderata degli Stati Uniti d'America. C'è stato il discorso del Cairo, qualcuno sostiene che il responso, almeno quello finora emerso dalle urne iraniane per le presidenziali, sia in un certo senso stato una mazzata nei confronti del discorso del Cairo, e invece c'è chi sostiene che il discorso del Cairo è un inizio, è un'apertura di discorso, e il discorso che in una ben più modesta intervista ieri Barack Obama ha fatto, ovvero quello di dire che ben poche sono le intenzioni di intervenire, di appoggiare l'opposizione o peggio ancora di sostenere un cambio di governo da parte dell'attuale Casa Bianca, non siano altro che la prosecuzione coerente del discorso del Cairo. Insomma, che l'America su questi terreni si muove con una prudenza diversa, e addirittura con un atteggiamento assai diverso a quello a cui ci aveva abituato la precedente presidenza. Abbiamo in linea Ugo Tramballi, inviato in Medio Oriente del Sole 24 Ore, profondo conoscitore di questi scenari, e peraltro reduce da un convegno che si è svolto ieri al Centro Studi Americano di Roma, in cui si è parlato proprio di Iran. Buon pomeriggio Ugo, e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Ugo, che ne pensi? Che reazioni ti ha destato questo atteggiamento così coi piedi di piombo, veramente soffice da parte di, o apparentemente soffice da parte di Barack Obama, ed è coerente o invece è qualcos'altro secondo te? Beh, è assolutamente coerente rispetto agli obiettivi della politica estera di Barack Obama. Allora, posto che io credo che fra Mousavi e Ahmadinejad in realtà ci sia una notevole differenza, anche perché la campagna elettorale di Mousavi era tutta impostata, se non solo nello specifico sul nucleare, ma nello specifico sul fatto che non ha senso che l'Iran entri in competizione con l'universo mondo, cioè era un sostenitore della linea dell'apertura dell'Iran al resto del mondo, quindi era implicito poi anche il discorso del nucleare, ma questo comunque è un giudizio mio. Quello che invece è un giudizio, una scelta dell'amministrazione americana, è cioè, diciamo, sono due i punti. Uno è appunto il nucleare, e quindi nel caso in cui vincerà, come sfortunatamente probabilmente sarà Ahmadinejad, è con quello che bisognerà trattare la cosa che agli Stati Uniti e all'Occidente più preme, cioè quello del il dibattito sul nucleare, e quindi bisogna tenersi buoni in qualche modo gli interlocutori quali essi siano. Certo. Numero due, ma in realtà come dicono gli americani last but not least, in realtà ancora più importante, è che c'è una scelta specifica della politica estera americana nel mondo e nello specifico in Medio Oriente. Mm-hmm. Questa nuova amministrazione, cioè che la democrazia, lo sviluppo, la diffusione della democrazia non è una priorità, non perché improvvisamente un uomo così idealista come Obama sia diventato un uomo duramente pragmatico come Henry Kissinger, al contrario c'è una comprensione di un vero problema, e soprattutto c'è la constatazione di 8 anni di drammatico sfacelo dell'amministrazione Bush nella presunzione di affermare la democrazia. E se ricordiamo tutte le elezioni, anche quelle veramente democratiche che sono cadute in Medio Oriente, hanno portato al potere Hamas, Hezbollah, fratelli musulmani, gente sicuramente che non era democratica, perché era ovvio, come del resto già allora segnalava Madeleine Albright, l'ex segretario di Stato di Bill Clinton, imporre la democrazia è un ossimoro, cioè la democrazia non si può imporre, se no non è più democrazia. Certo. Il fallimento drammatico di 8 anni di imposizione di democrazia, e ovviamente qui stendo un velo pietoso sugli episodi tipo Abu Ghraib o Guantanamo, che certamente non rendevano credibile la propaganda democratica di George Bush, hanno spinto l'amministrazione Obama ad essere molto più pragmatica su questo, anche perché alla democrazia non ci si arriva con un'elezione. Ma si arriva attraverso il cambiamento di una società civile, cominciando a investire su come si educano i bambini nelle scuole, creando una stampa lentamente, una stampa libera, creando un mercato sempre più libero e sempre più aperto, e poi nel giro di una generazione, fra 15 anni, probabilmente in questi paesi ci sarà la democrazia. Ecco, seconda e ultima cosa, ma non è che questo atteggiamento, questa presa di posizione, forse perfino arrivo a dire questa possibile provocazione da parte di Barack Obama, riapra, allarghi ancora di più la forbice nei confronti delle posizioni europee, insomma da più parti, non appena è emerso l'esito delle presidenziali in Iran, qui si sono alzate voci preoccupate, quando non addirittura allarmistiche, insomma si sono usate anche espressioni molto grosse, in televisione abbiamo sentito a più riprese pronunciata la frase guerra civile, e comunque c'è stata proprio una riga netta in mezzo alla lavagna, i buoni e i cattivi. Obama si pone proprio in uno scenario che sembra completamente diverso, come se il suo scenario internazionale in questo momento sia diverso da quello che invece stiamo vedendo rappresentato all'interno della comunità europea, non pensi? Beh, noi italiani ed europei contiamo molto meno degli Stati Uniti se nel mondo, siamo qualsiasi certo, cosa diciamo certo. Non è così decisiva certo. Come quello che dicono gli americani. Intanto, e poi io credo che anche questo faccia parte un po' di gioco di sponda, no? Cioè gli americani, come non è la prima volta del resto, non solamente sul caso iraniano, ci mandano avanti un po' per riaffermare gli antichi valori di democrazia dell'Occidente, in modo che si possa dire che comunque l'Occidente non dorme, lasciando fare il lavoro vero, a volte quello sfortunatamente quello sporco, a volte quello invece più importante verso l'obiettivo di una pace, di un accordo, di un compromesso, lasciandolo fare agli americani. Va bene, io ringrazio Ugo Tramballi per queste osservazioni, per questi pareri riguardo al divenire della situazione in Iran e alle reazioni internazionali che circondano questi fatti. Tra l'altro un paio di notizie appena spuntate dalle agenzie. La prima è quella che numerosi calciatori della nazionale iraniana che ha giocato contro la Corea del Sud hanno portato al braccio una fascia verde che è stata appurata essere il simbolo del candidato sconfitto alle presidenziali di venerdì, ovvero Mousavi. Il gesto dal chiaro valore politico è stato trasmesso anche dalla televisione iraniana e quindi è stato visto da un gran numero di persone, considerando che il calcio in Iran è assai popolare. E la seconda notizia riguarda YouTube, che ormai è il luogo comune di un'informazione prefiltro, no? Senza filtro, o si spera, o apparentemente senza filtro, ma naturalmente di origine popolare, quindi con tutta anche la soggettività del caso. Comunque sono innumerevoli e sempre nuove le immagini amatoriali delle proteste di Teheran che arrivano su YouTube. C'è un divieto da parte delle autorità iraniane, ma non sta fermando questo flusso di immagini. Sono una gran mole di informazioni inedite che descrivono e mettono a disposizione di tutti, degli occhi di tutti, ciò che sta accadendo nella capitale iraniana e altrove. E naturalmente molte sono le immagini che mostrano manifestanti picchiati dalla polizia e anche una irruzione di militari nel campus della università. C'è un venerdì che è stato da parecchi esperti, un venerdì sullo sfondo da parecchi esperti, è stato individuato come il giorno chiave delle turbulenze che provengono dalla elezione, dal voto di venerdì scorso e poi dal sancito successo di Ahmadinejad e poi questo riconteggio, le cui modalità, il cui svolgimento e a sua volte la cui regolarità è tutta ancora da sancire, da capire, da comprendere, che lasciano presagire un altro fine settimana assai agitato dalle parti di Teheran. Noi cercheremo di raccontarvelo e di tenervi informati a riguardo. C'è veramente qualcosa di nuovo nell'approccio che anche i media americani stanno mettendo in scena in relazione a questa crisi, vogliamo chiamarla così, sicuramente a questo momento di profondi disordini che sta attraversando l'Iran. La lettura dei giornali americani ne è un segnale evidente. Sul New York Times c'è un interessante articolo che racconta di come ci si possa avvicinare, ci si possa addirittura insinuare, se per esempio ci si trova ad essere americani in Iran in queste giornate particolari, nella situazione locale usando tecnologie che prima non c'erano, Twitter addirittura, il social network basato su messaggi brevissimi, uno strumento che sta giocando un ruolo significativo proprio in Iran in questi giorni, è fortemente utilizzato, è naturalmente una possibilità, una capacità di essere connessi, di essere aggiornati in tempo reale, e poi anche direi un certo diffuso compiacimento da parte dei media americani, proprio alla luce di quanto ha detto Obama, e proprio in quella direzione, come dire: questa volta, signori, scusate, ma la responsabilità sulle spalle non ce la carichiamo noi, non vogliamo essere ancora una volta coloro che dicono basta, o che tirano giù la serranda, o che alzano il sipario su uno scenario problematico e poi si preparano a partire. In un certo senso Obama ha interpretato, credo, questa temperatura, che era anche un po' un umore popolare, nel dire va bene, ha vinto Ahmadinejad, è stato eletto, controllate, fate i vostri controlli, i vostri accertamenti sulla regolarità delle elezioni. Io sono qua e certo non smetterò di parlare con questo paese, i rapporti con i quali sono così difficili, perché ha vinto uno piuttosto che un altro, e quindi quello che è stato detto al Cairo, per quanto mi riguarda, è ancora valido. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Eccoci, passano tra l'altro immagini appunto di Iran, Egitto, di calcio d'estate, no? Che ci questa toccano anche da vicino. Già ci anticipa i mondiali dell'anno prossimo. Io invece, come faccio sempre quando abbiamo queste notizie dal mondo, parto per la tangente, certo. Mi sposto ancora più ad oriente, perché ci sono interessanti movimenti e sommovimenti che riguardano due giganti asiatici, ma direi planetari, cioè Russia e Cina, che stanno stringendo delle alleanze che da un lato possiamo definire una sorta di pallino di tanti nostri amici esperti che orbitano intorno soprattutto al pianeta cinese, e dall'altro credo non dovrebbero potrebbero togliere il sonno ad Obama, forse più dell'Iran, perché insomma vedere Cina e Russia strettamente unite, strettamente alleate, credo che agli Stati Uniti non faccia grandissimo piacere. Comunque certo. Sono in corso dei negoziati russo-cinesi a Mosca, c'è stato un incontro importante tra il presidente russo Medvedev e quello cinese, il suo omologo Hu Jintao. Naturalmente Putin è sempre lì sullo sfondo a controllare come vanno le cose, e hanno firmato tutta una serie di protocolli molto importanti. Per esempio c'è un'intesa significativa sulla cooperazione nel settore del gas. Sono anni ormai che Gazprom, questo mastodontico colosso del gas, sta lavorando in Siberia orientale per realizzare un sistema di produzione e di trasporto del gas verso l'Asia, in particolare verso la Cina. Ora tutto questo è possibile, quindi la Gazprom, se possibile, allarga ancora di più i suoi già sterminati confini, le sue sterminate aree di influenza, che naturalmente arrivano anche verso la nostra Unione Europea. E poi Russia e Cina si sono anche ulteriormente rafforzate nell'intesa sull'energia atomica, hanno appena deciso di portare a termine la fase 2 della costruzione della centrale nucleare di Taiwan, da non confondere con Taiwan, è una città sulla costa cinese, quindi si rafforzano anche su questo settore. Infine Russia e Cina hanno deciso di sviluppare dei meccanismi per incrementare l'utilizzo delle loro rispettive monete, il rublo e lo yuan, per i pagamenti e dei loro interscambi, quindi un ulteriore colpo al dollaro che sempre più stati, sempre più nazioni non vogliono come moneta unica per i rapporti economici internazionali. 3 ottobre di quest'anno è la data in cui il Comitato Olimpico sceglierà la sede dei giochi del 2016, la scelta avverrà a Copenaghen. Chicago, la città di Barack Obama, sta concorrendo molto seriamente a questa investitura. Garanzie finanziarie, l'appoggio della Casa Bianca, questi sono gli elementi centrali della candidatura di Chicago. Il comitato organizzatore, guidato da Pat Ryan e dal sindaco Richard Daley, della nota dinastia di sindaci di Chicago, ha presentato oggi il dossier della candidatura ai giochi. 45 minuti di presentazione, durante il quale è stato proiettato un video nel quale Valerie Jarrett, che tanto per cambiare è la migliore amica di casa Obama, tanto per capire come sono fatti questi giochi, le Obamiadi più che le Olimpiadi le chiamerei, titolare in realtà del bid, della scommessa olimpica di Chicago, ha confermato che il sostegno del presidente alla candidatura è in realtà il cuore, il trucco, anche perché nel 2016 si chiuderebbe eventualmente il secondo mandato di Barack, e ottime sono le speranze di quella che un tempo in America si chiamava la Second City. Allora, rapidamente sul fronte interno cinese segnalo che Hu Jintao e il governo di Pechino in qualche modo stanno copiando Obama, il famoso Buy American imposto da Obama per, come dire, dare credito agli stimoli imponenti nel settore soprattutto pubblico da parte del governo di Washington. Ebbene, di fatto la Cina sta facendo lo stesso, perché ha appena deciso di adottare una clausola che appunto possiamo ribattezzare Buy Chinese per i giganteschi programmi di sostegno pubblico all'economia che Pechino sta naturalmente attuando, il famoso stimolo da svariati miliardi di dollari o yuan, fate voi, a seconda della valuta. Praticamente i progetti di investimento pubblici dovranno utilizzare prodotti o servizi cinesi, per utilizzare merci importate sarà necessaria una preventiva autorizzazione delle autorità, che probabilmente non daranno mai. E per esempio già ci sono stati dei produttori esteri di turbine eoliche per la produzione di elettricità che hanno segnalato dei problemi, perché sono stati di fatto esclusi da un appalto da 5 miliardi di dollari, quindi cifre davvero vertiginose, finanziato proprio dal governo cinese, che ha deciso di fare tutto in casa, quindi solo ai cinesi. Adesso io la notizia ce l'avrei, cari ascoltatori, molto grossa e molto importante, richiederebbe anche molto tempo. Vedo una bella foto. Che non ho, infatti. E quindi lascio un po' a voi, come dire, la decisione. Potete anche mandarmi un messaggino, 349-238-6666. La notizia, vi ripeto, è di quelle che contano, perché è stato inventato il cheeseburger in scatola. Però io mi firmo qui, ne so molto, e se voi insistete ve ne dirò qualcosa. Insomma, se no, se non volete, pazienza. Peggio per voi, ma sappiate che il cheeseburger in scatola è in circolazione. Parlo in scatola di metallo, è mica una roba da bambini. Cambiamo un po' argomento, ovvero pigliamo l'argomento da un altro punto di vista, perché è estate di anno dispari e quindi è estate di Biennale d'Arte, è in scena a Venezia da qualche giorno, è inaugurato da circa una settimana, 10 giorni, è una Biennale interessante con molto dibattito tutto attorno, con un padiglione italiano di cui molto si è detto, con un curatore dell'intera Biennale che è stato lodato per il progetto nella sua interezza, Daniel Birnbaum, con la città letteralmente invasa di installazioni, opere e quant'altro, eventi, naturalmente feste, e poi c'è anche un titolo che ci ha incuriosito, insomma, Fare mondi, no? Noi facciamo un po' un programma che è proprio di scenari internazionali, di società globalizzata, di mondi che si rispecchiano e spesso purtroppo anche si scontrano, e allora ci interessa capire, andare a vedere come tutto ciò poi finisce, confluisce, no? Nel mondo dell'arte, come diventa, come dovrebbe essere missione, rappresentazione, descrizione, per esempio descrizione di un Occidente in crisi. Ecco, ci viene da capire quanta di questa descrizione di un Occidente dichiarato malato ormai da più di 6 mesi, no? Da quando è esplosa la crisi economica, arriva, no, fino a uno scenario di questo genere, a un punto di raccolta come quello della Biennale. Allora, per fare 4 chiacchiere sull'argomento abbiamo 2 ospiti di grande interesse in studio al mio fianco, che saluto anche per un ritorno qui a Jefferson, ai nostri studi, a Giuseppe Marino, editore d'arte, che ha una galleria a Roma, frequenta abitualmente mercati internazionali, tra cui quello cinese, ce lo è venuto spesso a raccontare durante le Olimpiadi, ha presentato ad esempio a Pechino un portfolio di opere d'arte per celebrare i giochi, ha rapporti con i collezionisti, quindi sa dove e come si muovono anche i capitali attorno al mondo dell'arte. E poi invece in collegamento telefonico, non so da dove perché è un uomo molto globale, Francesco Bonami, che saluto. Ciao Francesco. Buongiorno, salve. No, io sono in un posto, uno dei centri dell'intelligenza internazionale, che è Cesena. Ah, pensavo Prato. Prato ormai è fuori, non è più nella lista che è uscita su Financial Times, è sceso al 4º posto Prato. Va bene. Comunque Francesco Bonami, che peraltro dopo essere stato direttore di una biennale anche molto discussa e molto interessante 6 anni fa, se non sbaglio, no Francesco? 6 anni fa, 2003, è a sua volta partecipe dell'attuale biennale, con tutta una serie di iniziative di cui ci potrà anche parlare, e al tempo stesso ha curato una mostra che si connette, secondo me, sempre a questa globalizzazione, rappresentazione del mondo in tempo quasi reale, che è quella di Glenn Brown, che è aperta fino al 4 ottobre alla Fondazione Sandretto Rebaudengo di Torino. Ma io voglio partire da Giuseppe, che è qui al mio fianco. Insomma, una mostra, una biennale che si presenta con il titolo Fare Mondi, che vuol dire, poi insomma, ve lo facciamo vedere dal punto di vista degli artisti di ogni angolo del pianeta cosa sta succedendo e come sta cambiando, come si sta facendo questo mondo. Ma come visitatore hai avuto questa impressione o è diverso, è particolare, singolare il binario su cui corre l'arte contemporanea? No, io ho trovato, come le precedenti biennali, molto divertente, molto creativo, alcune cose un po' noiose, come tutte le biennali. E la proposta quest'anno voluta di singolarizzare molti padiglioni, no? Un solo artista, una sola provocazione, come dire, un solo colpo ma forte. Beh, alcuni padiglioni ho trovato molto interessanti, non ho capito bene perché hanno riproposto artisti con opere degli anni 60-70, tipo Fellstrom, un famoso artista in quell'epoca, è stato riproposto all'improvviso in questa biennale. Secondo me c'è poco significato in una biennale che si vuole sempre presentare con un nuovo e sempre rinnovata. Secondo te rivedere non è il passaggio giusto? Certo, secondo me no. Proviamo a sentire una addetta ai lavori, che cosa ne dice da questo punto di vista Francesco. Ci sono state anche opere, come dice Giuseppe, datate. Storicizzate. Beh sì, ma questa è una struttura. Daniel Birman è un filosofo, è un curatore anomalo, è un curatore che guarda molto alla storia dell'arte, quindi ha voluto costruire fare mondi guardando anche altri mondi che sono esistiti in altri momenti, quindi l'inserimento di alcuni artisti storici come Falson, come il gruppo Gutai, sono un tentativo di far vedere che in fondo l'arte è un flusso continuo che continua, particolarmente l'arte contemporanea continua ad avere una serie di rimandi, di intrecci che non sono soltanto legati al presente e alla moda, ma sono legati appunto a un percorso, e quindi credo che sia stato legittimo l'operazione di Birman. Poi può piacere o non piacere, ma quella è una questione veramente di punti di vista. Certo, personale. Senti, ma Francesco, dal tuo punto di vista, ecco, gli artisti presenti alla Biennale, e soprattutto la visione d'insieme della Biennale, quindi quella in un certo senso supervisionata anche dal curatore, si è accorto che il mondo, insomma, che l'Occidente è in difficoltà, c'ha il fiato corto, non ha quattrini, non sa pagare i mutui, c'è qualcosa di tutto ciò, quindi c'è uno specchio della realtà o è un altro mondo? Ma no, credo che sia sempre un altro mondo. Credo che la crisi si è fatta sentire in termini di economia, di anche di fondi che poi sono stati ridotti, ma però l'Occidente in crisi, secondo me, è ancora come si dice come si dice in americano, wishful thinking, un desiderio di chi vuole vedere l'Occidente in crisi. In fondo i premi alla Biennale sono andati a un tedesco, Tobias Reberg, con un bar che citava il costruttivismo russo, e a Bruce Nauman, un mitico artista americano, ma super americano, quindi tutt'altro che globale come artista. Quindi un Occidente in crisi fino a un certo punto, da un punto di vista di produzione artistica, e una Biennale forse sì più leggera, meno presa di posizione, vuol dire meno esagerata, però insomma sempre una Biennale. Dunque, Giuseppe, Francesco Bonami ha espresso giudizi molto, molto severi nei confronti del padiglione italiano per il modo in cui ha deciso di partecipare a questa rassegna internazionale. La tua impressione come visitatore e come esperto, come ha detto Lori, qual è? Sì, sono d'accordo con lui, però diciamo fino a un certo punto, se li paragoniamo agli altri padiglioni, non vedo questa grandissima differenza. Forse l'allestimento poteva essere meglio, ma è tutto diciamo è opinabile, le scelte pure sono opinabili, quindi non trovo che ci sia una grande discrepanza rispetto ad altri padiglioni. Invece Francesco, mi sembra che tu ci sei andato giù pesante, come dire. Cito una tua recensione insomma, in cui parli di una mostra sconclusionata, è così? No, beh, io lo trovo sì, una filo. No, io trovo che è una scelta suicida da parte del Ministero dei Beni Culturali, perché fa vedere un'idea di un'Italia che non è quella. Ci sono tantissime ricerche di artisti italiani che lavorano in rapporto con il mondo internazionale, e quello che noi vediamo è abbastanza... Sì, molto conservativo. Beh, non è conservativa, è di più, è di peggio. È qualcosa di persone che si fanno gli affaracci loro senza un minimo criterio logico e di conoscenza di quello che succede nel mondo. Io l'ho paragonata a come se uno fa la nazionale e mette tutti i giocatori di Serie C. Ho capito. Cioè, la nazionale è una squadra che deve vincere il mondiale e deve farti vedere. E lì è stato proprio un tutti i giocatori di Serie C perché gli stavano simpatici. Va bene, ci fermiamo un attimo, anche perché io ho il sospetto che tu stia o sulla ciclette o su un nastro di quelli dove si corre. Quindi, secondo me, sei allo sprint finale. Se resti ancora con noi, fra tre minuti concludiamo e parliamo un po' di mercato, che è un argomento che credo sia particolarmente a cuore: mercato dell'arte internazionale. Ne parliamo con Giuseppe Marino e Francesco Bonami tra poco. Oh, Torniamo rapidamente in studio con Giuseppe Marino, editore d'arte, gallerista e organizzatore di eventi legati all'arte un po' in giro per il mondo, e con Francesco Buonami, curatore del Museo d'Arte Contemporanea di Chicago e di tanti eventi. Ci sei ancora, Francesco? Sì, eccomi qua. Oh, curatore, tra l'altro, di una mostra, te ne vada a tuo onore, su cui Giuseppe Marino, mentre andavano le notizie del traffico, su cui Giuseppe Marino ha speso delle parole, devo dire, assai gratificanti. Insomma, la mostra si chiama Mapping the Studio, Artists from the Collection, 250 opere della collezione Pinot alla punta della Dogana. L'unica domanda, no? L'unico appunto, Giuseppe, che volevi fare a Francesco è che comunque bisogna mettere, come dire, tutto in mano a un grande nome straniero, no? Questo un po' ti duole, vero Giuseppe? Sì, certo, mi duole constatare che uno spazio di quella fatta e di quella portata sia praticamente gestito ormai sia nelle mani di un signore francese, un grande industriale, come purtroppo devo constatare che nessun industriale di media o grande portata sia stato disponibile per fare una larga operazione. Francesco, che dici? Beh, sicuramente dico, lì abbiamo un francese che è stato molto generoso con Venezia. Io sono di parte, quindi ho lavorato con lui, non posso altro che dire, però sicuramente dico, lui ha fatto un regalo a Venezia. Il signore non è un ragazzino, ha più di 70 anni, quindi veramente ha regalato un edificio rinnovato, riportato a nuova vita per le generazioni che verranno, perché poi lui quello non se lo riporta a casa quando ha finito, certo. O si stufa, e credo che è un peccato che in Italia non ci siano personalità che abbiano un senso civile di questo genere, di capire che il miglioramento di certe strutture nelle nostre città è un miglioramento totale del contesto urbano, della società, e non è soltanto una per l'odore e per pubblicità personale. Quindi questo sia un peccato. Io però sono contento che almeno ci sia un francese che lo fa. Che l'ha fatto. Francesco, dobbiamo chiudere il collegamento perché l'audio è tremendo. Comunque adesso ci saluteremo poi magari sulle linee private, ma sei d'accordo con quello che sta dicendo? Sono perfettamente d'accordo. Cioè, mi duole constatare che anche un italiano, ci sono aziende italiane che potrebbero fare la stessa cosa. È vero che Pinot ci fa un grande regalo e ci lascia una sua memoria tangibile nei prossimi centinaia di anni a venire. Abbiamo ancora un minuto e mezzo. Notizie dal mondo dell'arte, inteso come collezionismo e come mercato. Tu giri il mondo e... Beh, devo dire, le ultime, la Fiera di Basilea che si è appena chiusa, sulle opere d'arte, diciamo, storicizzate, ottimi risultati. Le aste, tutto sommato, i prezzi tengono bene. L'arte contemporanea ha avuto qualche flessione, però devo dire, rispetto ad altri comparti dell'economia, l'arte è un mercato che ancora esiste, tiene e mantiene il proprio status al di là della paura, la preoccupazione, l'ansia. Sicuramente. Sei sorpreso da questo o era prevedibile? Beh, in parte sono sorpreso. Vedo che però le case d'asse, per esempio, fanno delle valutazioni molto più basse di quelle che erano prima, però i prezzi poi vengono confermati. Diciamo, c'è stato un abbassamento dei livelli e sicuramente c'è stato un grande abbassamento dei flussi, però comunque le opere buone di qualità fanno sempre un prezzo. Sei stato negli Stati Uniti recente? No, recentemente no. E hai comunque segnali dall'America della paura, seguo, della crisi? Seguo le aste e vedo che però comunque le opere importanti non vengono poste all'asta, e se vengono poste all'asta i prezzi sono tutti. Quindi non si può andare a fare shopping in America? Sicuramente no, sicuramente no, perché nonostante il dollaro sia molto vantaggioso per noi comprare in dollari, non ci sono affari da fare. Va bene. Cina? Beh, lì è un mercato che continua a crescere nonostante la crisi, però totalmente diverso dal mercato americano, nel senso che i cinesi che comprano opere d'arte sono ancora molto pochi, però quelli che comprano si danno veramente un grande affare. E questo è un po' lo stato delle cose, lo abbiamo fatto celebrando un evento come la Biennale di Venezia, andando un po' a vedere che cosa si muove nel mondo, grazie alla partecipazione di Francesco Bonami e di Giuseppe Marino. Questo è Jefferson 2, l'arte della svolta, Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti e Pietro Lacorte a Roma e Milano. Jefferson 2 è radio24.it, su Facebook redazione Jefferson 2 o Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, replica a mezzanotte, diretta dopo le 4, come sempre qui su Radio 24. Ci sentiamo. Yeah.